Occhio alle preposizioni. A. Ascolta e controlla. Marina lascia un messaggio a Lia nella segreteria telefonica. Ha trovato gli articoli che servono a Lia e così Marina le chiede di mandarle un'email per fissare un appuntamento. Lia sta scrivendo la sua tesi di specializzazione e gli articoli potrebbero esserle di grande utilità. Le farebbe piacere dare un'occhiata agli articoli di Marina e dopo farle delle domande, perché Marina è un'esperta in questo settore della medicina. Lia vuole andare a prendere la sua amica all'ospedale alle 13, ma Marina è di turno fino alle 14:30. Le amiche si mettono d'accordo per incontrarsi dopo la fine del turno di Marina. Marina va da Lia per portarle gli articoli. Marina si mette comoda sul divano e chiacchiera con la sua amica. Avrebbe voluto fotocopiare gli articoli per Lia, ma non ha avuto tempo di farlo. Le due amiche parlano del seminario di un professore di Stoccolma. Lia avrebbe voluto seguire un suo seminario, ma non è riuscita ad iscriversi in tempo. La tesi sarebbe pronta, ma ogni volta che Lia la rilegge, le vengono in mente delle modifiche e degli approfondimenti.